Europa 24. Una buona giornata da Alessandra Schepisi. In primo piano le previsioni economiche di primavera della Commissione europea. La reprise è soutenue à la fois par des facteurs externes et par des politiques économiques qui commencent vraiment à porter leurs fruits. La croissance. Una vera ripresa è ormai in corso in Europa, sostenuta da fattori esterni e da politiche economiche che finalmente cominciano a dare i loro frutti. Così il commissario UE agli affari economici Pierre Moscovici nella conferenza stampa a Bruxelles. Riviste al rialzo le prospettive economiche della zona euro per il 2015, PIL stimata all'1,5 nell'Unione all'1,8, per il 2016 1,9 nella zona euro e 2,1 nella UE. Il servizio. Una vera ripresa ciclica, così l'ha definita il commissario Moscovici, è quella che ormai attraversa l'Europa, anche i dati lo confermano, dalla fiducia dei consumatori ai consumi, alla produzione industriale. Certo, l'eredità della crisi resta pesante, avverte il commissario, e la rimessa in moto è stata lunga. Al capitolo Italia la Commissione scrive che, sostenuta da fattori esterni positivi, l'economia italiana torna a crescere e la ripresa si rafforzerà. Quest'anno più 0,6%, l'anno prossimo più 1,4%. E dobbiamo dire grazie soprattutto alle esportazioni aiutate dal deprezzamento dell'euro. Altra nota positiva è il calo della disoccupazione, che dovrebbe stabilizzarsi attorno al 12,4%. Il nodo resta il debito, che tra l'altro sarà leggermente più alto nel 2015, oltre il 133%, ma poi secondo la Commissione la discesa sarà decisa dal 2016. Invariate invece le stime sul deficit. Qualche rischio la Commissione lo vede collegato a misure espansive aggiuntive annunciate nella legge di stabilità, ma non ancora dettagliate. E sulla sentenza della Corte Costituzionale, che ha bocciato il blocco dell'adeguamento all'inflazione delle pensioni, aprendo a un ipotetico buco tra i 5 e i 10 miliardi? Risposta scarna del commissario. È competenza delle autorità italiane indicare le misure per compensare le perdite e garantire che l'Italia resti all'interno del patto di stabilità. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quanto alla Grecia, la Commissione rivede al ribasso le stime, con una crescita del PIL del 2015 limitata allo 0,5%. I conti sono deteriorati, ha detto il vicepresidente Dombrovskis, mentre solo 5 mesi fa il paese era sulla strada di una crescita forte, con nuovi posti di lavoro e ritorno sui mercati in vista. Intanto proseguono i negoziati in vista dell'Eurogruppo dell'11 maggio. L'atmosfera è buona, ci sono progressi, ma ancora nessuna svolta, ha dichiarato il ministro delle finanze austriaco Schelling. L'Europa alza la voce, il premier Viktor Orban fa retromarcia sull'idea di aprire un dibattito sulla reintroduzione della pena di morte in Ungheria, abolita solo 15 anni fa quando Budapest chiese l'adesione al Consiglio d'Europa e alla UE. La cattiva notizia è che il premier ungherese Viktor Orban ha parlato della possibilità di reintrodurre in Ungheria la pena di morte, abolita solo 15 anni fa quando Budapest chiese l'adesione al Consiglio d'Europa e all'Unione Europea. La buona notizia è che quando l'Europa ha alzato la voce, il premier ha fatto retromarcia. Newton, kettős mércét alkalmaz. Ecco come sono andate le cose. Orbán, fresco di 2 sconfitte elettorali, ha commentato pochi giorni fa un omicidio di particolare ferratezza, affermando che quanto accaduto rilanciava, riportandola all'ordine del giorno, la pena di morte. Orbán chiarisca o sarà scontro, ha tuonato perentorio il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Una manciata di ore più tardi il numero uno del Parlamento europeo, il socialdemocratico tedesco Martin Schulz, annunciava che in una conversazione telefonica franca e aperta con il premier ungherese, Orbán gli aveva assicurato che il governo non stava pianificando alcun passo per introdurre la pena di morte e avrebbe rispettato ed onorato tutti i trattati e le leggi europee. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Ucraina e altri dossier internazionali al centro dei colloqui sino-europei in programma oggi e domani a Pechino, che da parte europea sono condotti dal capo della diplomazia della UE Federica Mogherini. La responsabile europea intende discutere di come l'Unione Europea e la Cina possano migliorare la loro cooperazione per porre fine ad un certo numero di crisi e impedirne altre, riferendosi all'Ucraina, al Medio Oriente e alla Libia. E con questo è tutto, un saluto e una buona giornata da Alessandra Schepisi. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.